In questa società ci sono leggi, regole ma che non leggi, e adesso non le reggi, gira largo e vai via, quest'aria non si respira, adesso tu prendi la mira e boom. Hanno sparato l'ennesima cazzata di stato, ma quando ti decidi a fare il rito abbreviato, che non tengo gli innocenti senza fiato in una stanza in cui vitto alloggio già stato ampiamente pagato. Televisione nuova adesso con il digitale, sì, niente male, adesso cosa cazzo vera costa caviale, porca troia, mi potete arrestare? Che devo fare? Spaccare una vetrina, ficcare mentre sniffo coca sulla tangenziale? No, io no, non sono come sono, preferisco stare in mono, sono sul trono del suono. No, poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete i miei qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. No, poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. Quante volte abbiamo cercato di andare avanti senza rimpianti, tutte fidanzate, tutti fidanzati con gli amanti, ora le ragazze non li tocchi con i guanti, e adesso io ho capito che non è vero ciò che è vero, ma è vero quando ti schianti. Attenti tutti sugli attenti, vestiti bene che stasera vengono i parenti, ed io che non ricordo neanche di avere in famiglia sti quattro deficienti. È troppo facile fare i finti bravi quando in strada neanche salutavi i parenti contenti, sorrisi a 30 denti. Sono 3 anni che non chiami, 4 che non vieni, 10 che non chiavi, e vieni che problemi, ti rivolge alla famiglia, già domani vai. Ma dai, amico, te lo dico, sveglia fra i pensieri, non hai capito che ci stanno dei momenti in cui mandi a puttane tutti i sentimenti, e cerchi di cambiare queste lenti, guarda bene quanti insegnamenti, quei ragionamenti, che se vai a scuola e non va bene non sarai mai un uomo per bene. No, non è vero, e se sei di questa idea vattene a fanculo, boom, uno in meno. Cacciamo questo velo sulla faccia per me, per te, per lo straniero. No, voi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. No, poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. E quante volte hai fatto tanto l'amico, e ti dico che a me non me ne fotte niente, non è per puntualizzare ma non stare con me, perché ti potrei sparare parole magari, poi boom, elimino sto vizio, almeno nel periodo natalizio. Vattene a fanculo e non passare dalla porta di servizio, capito? Non me ne fotte un cazzo se sei di nuovo partito, ma il partito non si vede da come sei vestito. Non hai capito, amico, che in questa vita sei finito. Io sono già andato nel mio mondo e ci ho fatto le radici con sti quattro amici. Adesso sono nato senza regole, partito senza linee di confine, caro armato, oh, quanto ho rischiato, quante persone amate, immerso nell'estate, non mi fate andare indietro, dite voi che ne pensate. Poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. No, poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. No, poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. No, poi no, non siete gli ultimi. No, poi no, non siete veri qui. Tutto cambia se vogliamo, niente è fatto in vano. Sì, noi sì, contiamo, noi qui ci siamo. Contiamo, noi qui ci siamo.